Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro e ben ritrovati all'appuntamento del lunedì qui a Radio 24 con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. E da questo mondo proseguiamo il racconto dell'emergenza con ospiti e testimonianze. Il primo oggi in linea con noi è Enzo Solaro. Solaro è segretario generale di Fedit, che è l'associazione che rappresenta i Corrieri Espresso. Buongiorno e bentrovato ad Hashtag Autotrasporti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora Solaro, ormai a due mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in un clima purtroppo ancora di grande incertezza, quale fotografia della situazione può scattare chiaramente dal vostro punto di vista? Guardi, purtroppo dovrei dirle che le incertezze stanno diventando certezze, nel senso che ovviamente il blocco delle attività produttive ha determinato, parlo per l'autotrasporto a carico completo, un calo drammatico di attività, e anche per le aziende corrieristiche, che sono quelle poi che trasportano e consegnano l'e-commerce, c'è un picco di attività in questa direzione, che però è quella che comporta, come dire, un'organizzazione più dispendiosa a fronte di ricavi che calano. Per cui paradossalmente più lavoro c'è in questo senso non accompagnato da quello tradizionale del cosiddetto B2B, e più le nostre aziende lavorano avendo i fatturati che vanno, il conto economico che va a gambe all'aria, insomma. Quindi una situazione difficile e complessa. Ecco, in queste settimane ci sono state anche difficoltà e tensioni all'interno degli hub logistici. Beh, certo che sì. Devo dirle che uno dei problemi che continuiamo a riscontrare purtroppo è una conflittualità di alcune sigle sindacali, quelle tradizionalmente vicine un po' all'area cosiddetta alternativa dei COBAS, con i quali stiamo cercando di intrattenere un dialogo, un confronto sereno, non sempre possibile, e questo ha contribuito a peggiorare la situazione. Solaro, prima lei accennava all'e-commerce e all'aumento dei servizi, d'altronde lo si può capire direttamente nelle strade semideserte, si vedono tanti furgoni in giro. Ecco, è possibile stimare la crescita dei volumi appunto del commercio elettronico? C'è ovviamente un picco dell'e-commerce, io direi che siamo vicini ai livelli tipici del periodo natalizio, per darle un riferimento, ed è anche comprensibile, le attività commerciali sono prevalentemente chiuse, e però le persone continuano ad avere, le famiglie, bisogno di cose, di generi, di prodotti, di merci, e l'unico modo per approvvigionarsi è appunto il commercio elettronico, l'e-commerce, di cui noi siamo le gambe, le ruote e tutto quanto. E credo che in questo momento le nostre aziende stiano svolgendo un ruolo anche di coesione sociale, nel senso che con tutte le attività chiuse io mi chiedo quale sarebbe la situazione del paese se le persone non potessero comunque avere le cose anche essenziali per la vita. Essenziali non è soltanto il cibo o le medicine, essenziali possono essere tanti altri prodotti. Cosa vuole che le dica? Le scarpe per un bambino che cresce o che insomma no. Secondo lei quali scenari si possono immaginare per la logistica nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Intanto il settore non potrà prescindere da un intervento dello Stato che aiuti le imprese a rimettere in ordine i conti. E non può essere soltanto un prestito, ci deve essere un intervento serio, importante, di riduzione del costo del lavoro. Quindi detto questo, in termini generali, io credo che se non troveremo il modo, in fretta, per carità, in tutta sicurezza, di far ripartire l'economia di questo paese, ci aspettano tempi bui. E siccome il mondo del trasporto, un mondo che lavora al servizio delle attività produttive, è inevitabile che le ricadute saranno pesanti. Enzo Solaro, segretario generale di Fedit, grazie e buona giornata. Grazie a lei e buona giornata. In questo quadro così difficile e così incerto, una notizia importante per il settore arriva dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha dato parere favorevole allo schema di definizione dei costi indicativi di riferimento dell'autotrasporto per conto terzi proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo schema distingue 4 classi di veicoli in base alla diversa massa complessiva e prende in considerazione altrettante voci di costo: veicolo a motore più rimorchio, semi-rimorchio, ammortamento del veicolo a motore, lavoro, cioè stipendio, trasferte straordinari, ed energia. Per questa quarta voce si intendono diverse possibilità di alimentazione. E a proposito di alimentazione e quindi di carburanti, a marzo il crollo del prezzo del greggio ha ridotto, seppur non proporzionalmente, il costo del gasolio da autotrazione. Il valore reso noto dal Ministero dei Trasporti per il calcolo dei costi di esercizio è di 1.378 euro per 1.000 litri contro i 1.443 di febbraio e 1.485 di gennaio. In 2 mesi quindi la riduzione è stata di 107 euro. Nel nostro Giro d'Italia raccogliere testimonianze in un momento molto delicato per il paese e per il settore che raccontiamo in questo programma. Ora andiamo a Taranto, Giacinto Fallone, presidente di Casa Artigiani Taranto, buongiorno. Buongiorno. Quando si parla di Taranto, il riferimento quasi obbligato va alle acciaierie. La notizia è che ci sono ancora forti ritardi nei pagamenti agli autotrasportatori delle fatture da parte del gruppo ArcelorMittal. Il settore è allo stremo, potremmo dire, è una frase un po' fatta, me ne rendo conto, Fallone, un'emergenza nell'emergenza. È vero, parliamo dell'emergenza Taranto. Taranto vive una situazione da incubo come tutto il paese. Però Taranto è maggiormente colpita perché, come tutti sappiamo, viviamo una situazione di inquinamento ambientale ormai insopportabile. Le imprese lavorano poco, trasportano poco e poi non riescono neanche a incassare quello che producono, perché, come Mittal ben sapete, da novembre ad oggi ha ritardato terribilmente, dilatato i pagamenti, portandoli a una tempistica che nessuna impresa può sopportare. Qui c'è una situazione che già a novembre deflagrò con un blocco di 10 giorni, ci furono date garanzie, pagata qualche fattura, ma queste garanzie poi sono andate a decadere. Adesso la situazione è peggiorata, aziende che non pagano gli stipendi, qui quindi mettiamo dolore su dolore, difficoltà economiche su tutto il territorio, i fornitori che piangono, e quindi abbiamo una situazione delicata. Al di là della situazione legata all'attività delle acciaierie, l'autotrasporto pugliese soffre anche su un altro fronte, è quello dei trasporti agroalimentari, una filiera che procede, ma ci sono grosse difficoltà per il trasporto, Fallone. Le industrie del nord sono chiuse e quindi il materiale prodotto dalle varie aziende non può essere trasportato. L'unica merce che si muove è l'ortofrutticolo, ma che sta subendo una situazione altrettanto di difficoltà perché le aziende del nord sono chiuse e quindi siamo costretti a portare, per non farvi mancare, la merce su, però poi dobbiamo ritornare vuoti. E adesso si sta verificando questo problema enorme, che i miei colleghi sono stati costretti a chiedere aumenti del 20-30% sulle tariffe, che le aziende non possono e non vogliono riconoscere, e per cui adesso ci sono anche dei periodi in cui stiamo rifiutando il lavoro con i mezzi rimasti fermi. Non so per quanto altro tempo il nord potrà resistere ricevendo meno merce di quello che serve per il sostentamento della popolazione nelle zone rosse. Giacinto Fallone, Casa Artigiani Taranto, grazie e buona giornata. Grazie. Dalla Puglia al Piemonte, Aldo Caranta, Confartigianato Trasporti Piemonte, buongiorno e bentrovato a Radio 24. Buongiorno a tutti. Dopo la Lombardia, ora è il Piemonte, la regione dove la curva del contagio preoccupa di più e dove le imprese di autotrasporto sono in grossa difficoltà, Caranta. Tutte le aziende, soprattutto le più piccole, gli artigiani, stanno soffrendo proprio la mancanza di lavoro, diciamo, di aziende chiuse. Quindi tutti quelli che lavorano per l'alimentare hanno le andate, ma magari non hanno i ritorni. E quindi questo è un danno grande per le aziende, oltre che poi ci sono molte attività che sono chiuse, quindi anche le aziende fanno, anche questo porta un danno, quindi c'è una crisi del settore, diciamo ci sono dei settori totalmente fermi, non solo il componente, ah beh, ci sono, non solo la componentista per le auto, quelle cose lì, la meccanica, queste cose lì che sono chiuse, settore dei trasporti, diciamo, inerti, quelle cose lì che soffrono totalmente, naturalmente i cantieri sono chiusi, quindi soffrono un po' tutti questi settori. A questo punto, in queste condizioni, quindi molti piccoli imprenditori dell'autotrasporto rischiano di gettare la spugna. Per forza, perché se si va avanti ancora un po' di tempo senza incassare o, come le dico, facendo dei viaggi che poi non ci sono i ritorni, quindi si fanno i viaggi sotto costi per mantenere il cliente, alla fine le aziende non sopporteranno per tanto tempo perché non hanno più fondi da mettere il gasolio e lì quando non c'è più da pagare il gasolio non c'è più nessuno che ti fa viaggiare, non puoi più viaggiare. Il problema è quello. Ecco, cosa raccontano in queste settimane i vostri associati? I nostri associati raccontano, oltre che la difficoltà proprio a viaggiare, che non trovano servizi, non trovano, ci sono molte cose chiuse, quindi specialmente il primo periodo è stato chiuso, quindi trovano difficoltà proprio a fare i viaggi per mancanza di fare le pause, riuscire a andare a mangiare. E in più proprio la pausa anche nei magazzini, che si perde molto tempo perché fanno entrare poche persone per volta, quindi bisogna fare delle code. E questo porta all'aumento dei costi a tutti. Grazie Aldo Caranta, Confartigianato Trasporti Piemonte, grazie e buona giornata. a voi. Sabato prossimo, 25 aprile, domenica 26, venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio, i TIR potranno circolare senza limitazioni sulla viabilità extraurbana. La ministra De Micheli ha infatti firmato il decreto che proroga la sospensione dei divieti nei giorni festivi. Termina qui oggi hashtag Autotrasporti. Vi ricordo Massimo De Donato in onda sabato alle 13.15 con Container, un approfondimento su questi temi. Con questo programma noi ci risentiamo come sempre lunedì alle 13.45. Ora la linea al GR. Grazie per l'attenzione ed Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag Autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.